Stazione canale 10? Scenda a Frusci, dai, scenda a Frusci. Ciao Vanni, aspetta un attimino che regoliamo un po', aspetta, voi vedete come tu scendi a Frusci? Ah, adesso no. Dammi il tempo di regolare, ascolta, com'è buona la modulazione, aspetta che abbassi un po'. Dai così, come ti sembra? No, non è male così, comunque, è abbastanza pulita. Probabilmente è stato... Sto provando questa radio, volevo vedere un attimino come andava. Ogni tanto sulla spalle spesso sotto l'innesto, capito? Non c'è tante cose, diciamo, tengo una cosa più o meno bella che ti serve per fare ascolto. Sì, ce l'hai ancora. Vediamo un po' adesso. No, adesso no. Questa che è come muovi un po' il cavo, dove è facile ottenere il resto, è una cosa strana. Infatti, deve essere come uno muovi, perché adesso sarà facile. Vediamo un attimino, 1, 2, 3, prova. No, adesso no. Non bisogna toccarlo, dai, il cavo è retto, è una ferrita in questa radio, il male non gli fa. Capito? Ascolta, ti sembra troppo alto o troppo bassa la modulazione? Se sollevo cosa succede? Beh, provo a vedere al massimo e poi vado, faccio passaggi, dai. Allora guarda, così ho aumentato un pochettino, come ti sembra? Allora ci hanno messo sotto. Quindi se sollevo così. Ecco, adesso sull'innesco? Sì, infatti. Adesso ho abbassato un po', come ti sembra? No, ce l'hai ancora. Guarda così. No, così no. Se tocco qua niente. Aspetta, vabbè, frega, tu lo controllo. Adesso ho sollevato poco poco, come ti sembra? Ma no, diciamo, prima no, ma poi a ultimo ci deve essere che c'è qualche cosa che si crea questo rientro. Aspetta, provo un attimino. Lo sto sentendo anch'io, avessi avuto un condensatorino gliel'avrei messo, un MC60, capito? Ne ho tre, quindi benvenuti. Forse meglio di me, no? Sì, comunque non. Ogni tanto te lo fa. Sì, c'è qualche rientro di radio perfetto. Classico. Adesso però non sta rientrando, giusto? No, però l'ultimo faccio si è fatta appena. E vedete, come tocchi qualcosa, va via. Ti avrebbe avuto un condensatore, non ci ho pensato ieri a metterlo dentro. Ah, che adesso ce l'hai. Adesso niente, vero? Già, diciamo che è bassissimo. Non vorrei che sia... Beh, Vanni. Allora, se no, c'è una piccola portata che si fa. Ma che si può fare? Stava un disturbo più alto di te. Il segnale, insomma. Vannino? Non ce l'hai, Fabio, ce l'hai. Ringrazio di arresto, avete avuto un condensatore, non sono a casa mia, capito? C'è un condensatorino dietro, aperto il microfono, è proprio... perché se vediamo se io tocco, se tocco la carcassa e l'altro passa o ce l'ho ancora? Così, qui adesso non ne hai. Così non è, vero? Sì, lo stesso. È il classico condensatorino, ci sarebbe voluto... Tocco a massa, qua la calza, e adesso ho fatto una prova. Adesso lo sta ancora facendo? Sì, lo stai facendo ancora. C'era ancora così, 1, 2, 3 prove, adesso provo a fargli un ponticello. No, adesso no. Vannino, ora com'è? Lo senti ancora? No, adesso non lo fa, rifallo di nuovo a vedere. Ma lo vedo già io dallo smitter, Lo vedo dallo smitter. Adesso non lo sta facendo, giusto? Sì, infatti. È così, è pulita adesso. Io collego questo cavo e lo sta facendo, o no? No, adesso non è fatto. Ti risolvo con un accrocchio strano. Adesso non lo sta facendo. No, però l'hai toccato, perché l'ha fatto un secondo e poi ha smesso. L'ha fatto un secondo e l'ha smesso. Adesso non sto toccando niente, lo fa? Sì, adesso sì. E adesso lo sta facendo? No, lascia la pulita invece così, non parlare. Allora, questa è pulita, Fabio, vai perfettamente bene. Ok? È pulita. Adesso questo passaggio, prova a parlare, vediamo se rimane stabile. Ho spostato il microfono, va bene adesso, quando la avvicina la radio troppa. Quindi così era pulita. Sì, se così, ma funzionatelo così. Ora? No, no, adesso va bene. Allora, che strano, e lo sai com'è la questione della radiofrequenza, lasciamolo qua il capo, correre qua. Adesso te l'ha fatto un po' di risposte per qualche secondo. Adesso? No, c'è andato. Come mi ubicava le volte, aspetta, che io volevo mettere, vabbè, lo insegniamo, aspetta che se lo metto dietro, ecco, sotto, dietro la radio, voglio vedere cosa succede, aspetta. Adesso mi sembra che non lo stia facendo, lo vedo, lo sento anch'io, eh. Infatti, adesso non lo fa. Sì. Ascolta, secondo te, perché poi una volta che innesco c'entra anche dalla potenza, se mi dovevi dare la regolazione del Mickey Gain. Adesso se non lo sta facendo, volevo provare a sollevare leggermente il Mickey Gain e vedere un attimino come si sembra. No, va bene, l'ho fatto leggermente adesso, provo a vedere. Adesso ho sollevato un pochettino, come si sembra? Sì, certo, sì, si rientra con la mente. E poi faccio un'altra prova, provo a mettere un filo, se no poi uso la calza come... Anche adesso ce la brivido. Guarda un pochettino che ho provato ad attaccare un filo, come lo senti? Importante muta. No, adesso è buono. Allora, facciamo una cosa, perché io poi faccio una... Siccome la calza io non l'ho utilizzata, provo a usarla a fare un lavoro. La modulazione ti sembra troppo esagerata o no? No, con la modulazione no. Ho aumentato un altro po', ti sembra esagerata adesso? No, no, è pulita prima. Allora, ho aumentato un altro po' ancora, ti sembra esagerata o posso aumentare? Un K, eh? No, aumenta, vedete. Ho aumentato un altro po', 1, 2, 3, prova. Si vede che si è amplificato, comunque la modulazione rientra nella norma, di un po' amplificato, un po' eccessiva, però è pulita, non c'è nessun rumore, va bene. Allora tu dici che deve abbassare un pochettino, dai. Vabbè, ti ricordo che sei un po' amplificato, però comunque non disturba, mi hai capito, non è che gracchiante, no, è pulita, però si nota la differenza. Adesso dovrei avere per dietro un'altra modulazione per fare la differenza di quanto si è amplificato, però non distorce. E allora io, siccome sto collegando da radio a lì un cavo, sto pensando di usare la massa e... Vabbè, comunque l'importante è che ho già capito che cosa, dai, provo a usare la massa sugli spinozzi per collegare le due masse, tra massa e radio, per evitare di lasciare un filo, che c'ho la massa libera. Sicuramente, infatti, è questione di massa, perché la radiofrequenza di tutto, anche la massa sera della palata è importante, ma... Comunque così, adesso è andata bene. Vabbè dai, due minuti faccio una modifica sul cavo e vediamo un attimino, là. E beh già. C'è importante già, cosa? Dove sei Gianni? Ah, ho capito, già ti sento adesso. Dai, ascolta, Puglia, Col portatile, Luca. Ciao Marco, sì. Ciao Luca, ciao. Sta chiamando Gianni, Marco. Vieni avanti, Gianni. Santiago 3, però lo capisco. Sì, 3, 5 oscillante, dai. Ok, è buono che arrivi però. Non è male, amico, il portatile che ha Gianni. Capito Luca? Si conferma, mi sto prendendo la macchinetta che ho acquistato su internet. Perché non taglia, infatti mi ha detto che di metterla di nuovo nel pacco, che se la prendono, viene se la prende il corriere. Ma la taglia a capelli? No, la pesatrice per i cani. Ah, ho capito. No, io invece la mia taglia a capelli l'ho consumata. La Giovanna non taglia più da quanto l'ho usata. Infatti io non vado dal barbiere. Oh, abbi la voce. Vabbè, io vado dal barbiere perché io faccio un taglio un po' particolare, no? Sì, vabbè, tu curi più i capelli anche, no? A me basta tosarli, basta che siano pari e corti e mi va bene così, dai. Kappa. Anche io li faccio corti, ai lati, proprio ai lati a zero, ai fianchi, dietro, a zero, alla vetta. Luca, cosa volevo ordinare? Anche tu quel rosometro bello te la dai, va? Marco, se non so a trovarlo... Ma come hanno detto che non misura, il massimo che... cioè il minimo che misura è 5 watt, un watt non lo misura, 2 watt non lo misura. No, per le stazionarie dicono watt minimi per misurare le stazionarie 5, però poi se i watt sono meno, cioè tu l'ago, l'incrocio lo vedi al di sotto di quella scala, no? Hai visto? Inizia a una certa altezza la scala, però a occhiometro, anche se usi 2-3 watt, le stazionarie le ottieni lo stesso, ci siamo capiti, no? Se guardi la foto lo capisci. Comunque attenzione, perché tu ieri hai nominato il 901 VN, guarda che il VN è la versione VHF-VHF, se ti serve per la CB devi prendere la versione HP oppure HP3, HP tiene 2 kW, la HP3 tiene 3 kW. Sì, ti ascolto già, mi è sparito Luca. Ha detto che la nonna Isa, sì, io ti ho ascoltato meglio già, mi senti a me? Ma bomba? Come? Ecco te sei il cazzo. Ma è arrivato il coglione della portante, mi è da un po' di giorni, mi poi arriva a bassa 5, 6, 7 massimo ed è sempre ti. Troppa gente è rientrata, capito, con questo coronavirus, eravamo meglio in pochi, in pochissimi. Portante a raffica già, è bassina ma ti copre. Adesso va anche mongoluido, già. Comunque, capito Lu, la versione VN è per VEU, non ti sbagliare? Sì, ho capito. Adesso vediamo. Bello sarebbe avere tutte e due, uno che ti copre l'HF, no? E poi la VEU per il PMR. E anche, perché tutto lo devi ordinare. No, ho lasciato perdere troppo, tanto le stazionarie le ho verificate, cioè le controllo solo in caso di problemi, due volte all'anno le controllo me, cioè io in realtà non costruisco antenne, non ho bisogno di uno strumento così costoso e così professionale, a me basta quello schifo di rosmetrino piccolo, tipo Proxelmi, piccolo, segna discretamente, dai, magari segna appena di più, anziché 1 e 1 ti segna 1 e 2, però l'importante è che le segni, meglio in eccesso che in difetto. Poi ti mando una foto, vedrai che schifo è, però funziona, chi è che non sta uscendo di radio? No, c'è una stazione che chiama ed è Santiago 9 circa, però non esce di radio, oppure è portante. Aspetta che mi è sembrato di sentire una parvenza di modulazione, vai. No, allora Fabio, c'è una reminiscenza di modulazione, però si capisce che sei tu, ma è proprio una reminiscenza di modulazione sul fondo, è praticamente 0,01 la radio. Ho capito solo grazie. Ciao Fabio, dai. Bene Luca, sì, ho lasciato perdere, no, troppo impegnativo, poi in futuro si vedrà. Aspetta un attimo Marco, dai, che mi organizzo, devo trovare un pezzo di cartone per fare un pacco, se riesco. Ehi Lu, fai, tanto io qua sto facendo roba in casa, ok? Saluto tutti, Gianni se mi copi, Fabio se l'ascolto ancora, ciao a tutti, ciao. Gianni mi copi, riprendi, prova a riprendere. Niente, troppo basso già, sei 1-2 proprio nel QRM, dai, già sentiamo migliori occasioni. Fabio, se sei tu come prima, forse hai aumentato, anziché radio 0,01 sei 0,02. Attenzione 10 per una prova. È la trombetta, c'è la tromba sotto. Quindi senti ancora la tromba trombina? Così. Sì, c'è la trombetta. Ancora? No, adesso no. Adesso no? Quando tocco tutti e due? E adesso sì, vero? Sì, adesso sì. E quello con cui la radio direttamente, aspetta. E beh, già. Luca, non c'era, ti stavo chiedendo un poco fa. Già, purtroppo stavo... Solo acquistato la taglia, quella tosatrice per i cani, non taglia bene, gliela sto rispedendo indietro. Stavo facendo di nuovo il pacco, dimmi. Cos'è? Per tagliare il pelo? Come? Cos'è il pelo? La forbice per il pelo, per tagliare il pelo oppure per le unghie? Sono un beato, non capisco un cavolo. Aspetta, cosa? Sì, un beato, non capisco niente di quello che dici. Qua se va bene, forse era troppo alto. Ho detto, cos'è preso? La pinza per le unghie oppure per il pelo? No, no, la pinza, ma la macchinetta tosatrice. E non taglia. Tu? Ehi, ehi. Cazzo, da cosa? Ma col conto sento. Come lo senti a ma col conto? Al 13 sono già, fra un attimo. Andiamo là. Ok, ci sono. Capo. Stavo dicendo, io ho questo portatile della Inter, che l'altro me l'ho venduto, fuori, l'altro che c'avevo, anche se andava bene, ma tutta chissà roba, cosa devi fare, me l'ho venduto fuori, 100 euro l'ho venduto. Cos'era l'altro? Sempre un Inter, che poi era quello soccorso, con la valigetta, l'antennino, eccetera, eccetera, ho venduto tutto. Vabbè, no, io si era bruciato la Evoldina con 40 della Lafayette, se non sbaglio, sì, Lafayette era. Ciao. L'ho portato a riparare in Viale Mameli, c'era, può essere Viale Mameli, no, Viale San Francesco, c'era un tipo che si riparava, poi ha chiuso, boh, ho perso anche quello lì, ho perso. Ah, c'era più tu lui a Parì. Sì, sì, non l'ho più tracciato, anche perché poi mi ero dimenticato. Pagano a. L'avevo lasciato per vedere se ne recuperava qualche pezzo per ripararlo, e invece, sono andato dopo qualche mesetto, non c'era più nessuno, non c'era più niente. Sì, vabbè, succedono queste cose, ma sono sempre strane. Vabbè, no, adesso per esempio mia moglie ha portato un... anzi l'ha dato un amico per riparare un cellulare, anche questo l'ho chiuso, vabbè che era morto, l'ho portato da altre parti e tutti hanno detto che non conveniva ripararlo perché era bruciata proprio la scheda madre, però cavolo, c'è gente proprio che se ne frega, chiude, se ne va, non li rintracci più. Vabbè, non c'è un numero di telefono per recapitare. No, proprio ha chiuso, il negozio c'era un telefono fisso ma non risponde più nessuno, quel numero non funziona più. Ma da poco è successo? Forte propagazione. Ah, c'era qualcuno che chiamava sottofondo, non capisco chi sia. Avanti se vuole entrare qualcuno. Cazzo, Capri 2, non è grande e basso, Capri 2 sei bassissimo. Con Franco di Sassari. Sei basso, sei Santiago 1,5, dai. Pensavo che fosse propagazione addirittura io. L'ascolti, Franco? No, prima l'ascoltavo, adesso sento che parla, però no, è incomprensibile. Capito, Franco? Quello di Viale San Francesco è morto, il tipo, per quello che hanno chiesto. Ma io ti parlo di 30 anni fa, non so quando sia morto. Chi era quello lì, l'amico tuo Capri 2? Metà verde, là. Aspetta un attimino, che c'è Capri 2, ragazzi, passeggeri. Chiedi, ma perché ha peggiorato? Ehi, ha peggiorato con tutti. Cosa è successo, Capri 2? Stazionari c'hai? Un attimino, dai, che c'è Eugenio. Eugenio, avanti. Buongiorno! Ciao Eugenio! Eugenio il genio! Buongiorno! E come sei? Col furgone? Cazzo, sei Santiago 8! Cosa stai usando? Ecco, state qui! Ho previsto come nulla! Cambio! Ma sì, a Sassari! Perché sta arrivando da 7 a 9! Ma cosa? Sono a Porto Torres! Sono a Porto Torres! Sto scendendo da lavoro! Sì, da 7 a 9! C'è adesso di nuovo, che prima arrivavo in basso. Non c'è nato, grande, la Turbo 2001. Esattamente 2001. Arrivi forte con quella, Eugenio. se lo puoi salutare. Franco di Turina. Ferrovia, come ti lo chiama? Non lo so, Franco. Franco, quello che abita via dove c'è la ferrovia, là. In via di Sicilia, Cavagava. Ti ascolto, non fortissimo come Gianni, beato lui. Allora, buonasera. Da 7 a 9. Qua, figura, neanche Santiago 1, però lo ascolto di radio, però è sempre arrivato così, anzi a volte anche peggio, oggi invece lo sto ascoltando anche dalla macchina. Infatti c'è un piccolo sospetto, vabbè, comunque, magari te futtendi a Sassari, boh. Avanti, Capri 2! Stava gava. No, sta arrivando bene oggi, se è così sta arrivando veramente bene. C'è Capri 2 in parcheggio, aspetta che lo chiamiamo, Capri 2! C'è un blecco basso basso già, chi è avanti? Ma se non c'è il radio incomprensibile, chi sei? Ma stai uscendo fa, sei basso basso, fai qualcosa. Ma io vai la fase brutto. Qua Santiago 3, la radio però non si sente, ciao Claudio. Santiago 3, il radio non si sente, qua è segnale, non è vero, il radio non è sento. Ciao Cla, qua lo stesso, anche meno. Ma chi è? Non so. Avanti, fatti sentire, dai motore. Uia, i tivaracchini delle cantine. Buonasera a tutti. Ciao anche a Luca, Ma vedete? Santiago 5. No, io Santiago 3, ma capisco che stanno parlando, ma non siete bene la radio. È Capri 2, è Capri 2 che sta parlando, è Capri 2 che sta parlando, aspetta un attimo il break. Ehi, già, però non ti sente nessuno a Sassari, Ok, avanti break. Ciao Fabrizio, mi serve qua un controllino per vedere se sto innestando, se c'è questo è il problema di questa radio. Sì Fabri, c'hai un innesco fortissimo sotto. Adesso no, sto cambiando il microfono, vero? Sì, adesso no, mi sentono solo delle scariche e basta Fabri. Adesso prova a mettere un filo. Prova, siamo qua, buonasera a tutti, avanti a chi tocca. C'è anche dei picchi negativi, brutali. Ciao Fabrizio, ben sentito. Me devo mettere gli occhiali io, se poi ho bisogno di controlli ci spostiamo. Oh, vi sentite col barracchino? Sì, che già arrivo, vero? Barracchino, tarne più due, sì. Ah, ottimo segnale, tranquillamente, la radio è buona. Non è com'è quella del capo, però è buona, no? Da barracchino. Sto usando il Polman 7000 col tarne più due, cambio. Bene, bene, qualcuno c'è sotto? Beh. Vai Fabri, non c'è bisogno di breccare, vai. Allora, vediamo un pochettino. Adesso ho abbassato un po' la potenza. Abbassiamo un po', ecco qua. Un po' la potenza e anche un po' il mitigate. Adesso sei 10. 10 che vuol dire? Che vai benissimo. Senza disturbi, segnale il tuo e la radio 5. Va bene, allora così lo sai benissimo lei che secondo dove monti questa radio basta poco per innescare, bisogna mettere il condensatore e lavorarci. Adesso una croce così, l'importante è che vada bene. E quella là Fabri, hai trovato il guasto? No, non sono a casa mia, sono qua da te. Tu dico, sono a casa di Riccardino, che ti sto prestando una HF per poter ascoltare. Benissimo, noi siamo felici che Riccardo entri nel mondo delle radio vere, KK. Un segnalone anche, cavolo, quello ce l'hai arrivato. Oh, qua da 3 adesso è a 9. Qua è 9 più 20, vai a 9,25, prova Fabri. C'era qua allora, e allora visto che c'era, detto vuoi fare qualche passaggio qua, lo puoi fare così, gira e ci faccio vedere un po', e volevo vedere adesso se sono riuscito più o meno, considera che ieri l'ho cablato velocemente e se era a casa gli avrei messo un condensatore dentro, avrei magari tenuto un trasformatorino per disaccoppiare il microfono, tutte le cose che si fanno, però qua al momento se lui riesce a uscire così, poi se lo senti innestare magari gli spiega anche tu, va, abbassa un po' quel car, abbassa un po' il Mickey Gain, abbassa qui e lui glielo fa. E comunque più o meno sta andando, là. Ascolta Fabri, per rendermi conto nel caso ci sia io che lo sento male, cos'è un 30 o un 40? ora? Un 4.30. Così ce l'ho davanti e le dico come deve fare. Va bene, per il momento lasciaglielo così che sta andando benissimo. Aspetta che lo faccio fare un passaggio a lui e dimmi come lo sentite adesso. E poi mi faccio un giro e gli spiego un po' di cose. E poi comunque quando chiedi, io non ci sono sempre, tu ci sei di più, però quando ci sei mi dai delle informazioni anche come fare ascolto e come vedere le cose, dai. Grazie, fai parlare a lui. Ciao a tutti. Ah, è carino, 9+20. Quante giorni da più Roma mi stai arrivando? Ottimo segnale, ottima radio. Ok, grazie Claudio. Ma sta arrivando forte anche io, prima facevo fatica, segnale forte, radio bassa. Era ora, adesso bisogna cambiare il nome attivo, non è più Riccardino, adesso è un Riccardone. Adesso mi segnale, che anche voi arrivi. Arriva segnali di Sassari adesso c'è. 9+20. E la radio? La radio è 5, RK, io quella radio ce l'ho uguale, lo sa Fabrizio, quindi quando ti serve qualche informazione che non riesci a muoverti, me lo dici, ci spostiamo e io ti dico come fare, ok? Ok, grazie, riprendete. Aspetta un po' di innesco, che è importante da parlare. E fa un po' di lo senti qua. È tipico di quel tipo di radio, ma non è niente. Perdonatemi un secondo, ma c'è qualcuno che chiama da fuori, vediamo un po' chi è avanti. Ho di controllo, ascolti Catrai qui in zona della corte del cambio basso. Ehi Aruccia, buonasera, ben ascoltato, lì alla corte, magnificamente bene ti ascolto, Gappa. Sì, anche qui, no? È abbastanza chiaro, bella radio. Copiato Claudio. Ehi Aruccia, aspetta che c'è la Pitbull, cambio. Già ti ascoltiamo, non siamo sordi, Eugenio. Sì, Lucia, sì, sta provando una nuova radio, arriva veramente molto molto forte e molto molto bene anche, ok? Avanti Gianni Doppio Rumo, riprendi. Ehi, ciao Luciano, ben sentito anche a te, dai, dove ti trovi? Non ti ascolta Luciano, è giù sotto la corte, non ti ascoltano Gianni. Ah, così. Cos'hai detto, Eugenio? Luciano Catramina, è giù alla corte. Luciano, ti saluta Eugenio. Gamba Rogero, ricambiamo tutti, dai. Ho un po' a Gianni, ma qui è un po' zona negativa. Adesso sto uscendo fuori dal tunnel, diciamo, dai. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. E anche Eugenio. Gianni, ti saluta Luciano, fatelo uscire fuori dal tunnel lì sotto la corte e poi già vi saluta a tutti, ok? Avanti a chi tocca, Franco, riprendi. Sì, io lo sentivo così ogni tanto, non appena, però qualche passaggio l'ho copiato. Volevo sapere con quante volte sta uscendo Riccardino? Sicuramente parecchi, perché prima un barchino mi arrivava a 3, adesso è passato a 9 o 9.5 quasi. E guarda, io ce l'ho uguale con la radio, il 430, quindi dipende da come gli ha regolata Fabrizio. Quella va da 0 a 100 watt, quindi se sta usando per dire 20 watt di portante, modulati sono una cinquantina, perciò così, capito, Fra? Infatti, no, si vedono tutti, anche se si ha dei picchi un po' negativi, non so come lo stia alimentando, può essere che sia sottoalimentato? Ma tu, è dall'altro giorno questi picchi negativi, io non ne noto qua picchi negativi però, qua i picchi sono positivi di Riccardo. Riccardo, vieni avanti, forse le sta spiegando qualcosa a Fabrizio, le sta facendo vedere qualcosa a Fabrizio, avanti lui. Ehi, aiuto, provvita. No, sto mandando due foto per farmi rimborsare, al tipo che mi ha venduto la dosatrice, perché scalda un bene e ho tagliata. Ho capito, va bene, cazzo, sempre i punti vecchi bisogno, vai Doppio Rum. Vediamo se Luciano si è riuscito dal tunnel. Luciano, sei fuori dal tunnel, Il solito stronzo. Qua arriva 9.10 la porta. Cazzo, io sono sicuro che, guarda, sicuro, è più vero forse. Sei vicino a te, perché qua proprio non arriva, A Claudio quanto arriva il ruttone? Io che quel bisobinghinoso della Teloce, che a me mi arriva Santiago 7, cosa? Non me la fotti nuda, lasciatelo perdere, non mi fa niente intanto, cosa mi fa a me? Cosa copre a me? Se copre a me, pazienza, me ne vado e chiudo, ma a voi non mi fa niente. Non ha giustato, mi inviti auguri macchi io. Luciano, ti ha salutato Gianni, sei uscito dal tunnel. scappa Luciano. Allora vi saluta a tutti Luciano, ora intanto non vi sente, e vi saluta a tutti, ok? Un saluto a tutti a Luciano Catramina. Avanti Beck, ecco, minchia papà, tu stai camminando sì sopra i tetti, voglio vedere quando è che ti fermi. Santiago 5 io ti ricevo, fra un po' non ti ricevo più se aumenta il QRM della pioggia. Avanti doppio lu. A me arriva 9, ma è vicino quello, a me arriva 9, no, io lo sento abbastanza bene, dai. Ancora non ti sei stufato di stare in giro con l'apparato in mano? Vabbè, lo faccio anche io quando porto il cane, ma 10 minuti, 20 minuti dopo me ne vado a casa. Cosa hai ritirato? I soldi per comprarti l'antenna? Sì, e che antenna ti devi mettere? Stai attento che nel banco quanto non ti punga digitando il PIN, che ci sono i rigidi. E a parte gli scherzi toccano tutti i tasti, cazzo, lì bisogna stare attenti. Il coronavirus già c'ha le spine, Cazzo, pacca l'idea, vabbè. Non li passeggiare, sui tetti sta passeggiando per farsi ascoltare con questa radio, ma cosa ci vuole a comprare un'antenna e un baracchino a metterselo in casa? Io non riesco a comprendere, vabbè, boccaccia mia, stati zitto, no? Avanti fra, riprendi. Comunque saluto Lupo Grigio, sei ancora all'ascolto, Franco da parte mia. Ricapitolando, che c'è anche KP2, c'è ancora? Non ti sente Franco, non ti sente Gianni, ha detto che sta facendo cose. Castarrivi Santiago 9 qua, quasi 9, 8 e mezzo. Come fa a sentirti Franco già? Ma adesso se ci va a rivendi uno. Si arriva 8 a me, vedete voi. Ma ha peggiorato di brutto, cosa ha fatto? Ha rovesciato l'antenna. Va bene Gianni, va bene. Ti ha parlato addirittura sopra Franco, cosa che non può esistere. Quindi vedi tu, Santiago 8, Franco è 9,5, quasi 9,10. Il tuo segnale qua è 9 più 20, non so cosa si convenendo, va bene. Avanti Marco, ci sei, sì, vuoi riprendere? Sì, comunque Capri è esattamente 4, Santiago 4. Correme 2-3, quindi siamo lì, proprio, è meno di termini. Dai, sto facendo roba qui, mi sto zuffando, sto cellulare. Prendete voi. Gianni. Forse la pioggia che gli ha rovinato l'antenna, sicuramente. Oh, e anche se non si decide a tenere i soldi sotto la mattonella e comprarsi l'antenna come ti si dopo. A sollevarla un po'. Guarda Gianni, quell'antenna è buona, è una buonissima antenna, e che bassa, c'è un metro di palo. Sì, ma adesso Clark, come mai? Mi arrivava 6 e mezzo, là. Adesso mi arriva Santiago 1, che ha cambiato la situazione. E cosa vuoi dica? E te sto modulando con un Inuit, 8 watt, io 8 watt arrivo in capo al mondo, non lo so, Gianni, non lo so, è un discorso che è già stato preso altre volte e io non ci voglio entrare. Si farà sentire meglio, cosa vuoi ti dica? Non lo so. Avanti Lucarie, hai finito di digitare? No, vediamo se Riccardo vuole riprendere, Ricca. No, quindi altri non ci sono, non c'è altro. Eugenio, no, allora fra, riprendi tu. Ritornando ai picchi negativi, cioè molti io dicevo con picchi positivi, cioè verso l'alto, e lui invece addirittura scendeva da 9 e mi scendeva anche a 7 se parlava a voce alta. Non lo so, ma non è, può dipendere dallo smitter, dal mio. Non lo so, guarda, io sto usando il Polmar 7000, però non ho notato differenze, è inchiodato, si inchioda sul 9 più 20 e va bene, ed è anche abbastanza preciso perché ho fatto le comparazioni con il coso. Ho ritirato, vabbè, altra roba, stasera alle 8 mi devono portare altri due microfoni e stamattina mi hanno portato fra un preamplificatore d'antenna per proprio i baracchini della MFG, spettacolare, più 30 dB per chi appunto ha segnali bassi, no? Ma ti mando la foto, roba professionale, 0,30, 0,30, è da 0 a 30 dB, da 0 a 30 dB, sia in attenuazione che in preamplificazione. L'ho provato, amplifica solo la voce e il segnale, elimina completamente il QRM, capito? Non è anche come tu attacchi un preamplificatore d'antenna, no? E vabbè, gli HF non lo fanno, ma i baracchini chi ce l'ha? Che non ce l'ha nessuno il baracchino col preamplificatore d'antenna, aumenta anche il QRM, questo aumenta solo il segnale e la modulazione. Ti mando la foto, ma sai quanto è bello? Una cosa bellissima della MFG, mi l'ho mandata a Natalino, visto se a me mi ha detto. Adesso lo tengo un po', poi vediamo se serve a qualcuno, vediamo un po', dai. Hey, K, come pensa cosa si adira? Non so se c'è un'idea, dai. Io ce l'avevo nel lineare, non so se ti ricordi il Jumbo, l'Aristocrat, aveva una sorta di amplificatore d'antenna, ti ricordi? Sì, ma questo è il professionale della MFG, che non è della ZG. È molto bello anche esteticamente, molto bello, ti mando la foto, lo mando anche a Gianni. Non lo so. Anzi lo so, ma non te lo posso dire qua, c'è il nemico che ascolta. Vabbè, un messaggio, dai. Non so, basta cercarlo, ci sarà su internet, dai. Dai, costa quanto è un baracchino, dai, per farti capire. Ma un baracchino serio però, oltre alle 100. Costa 180 euro. Aspetta che ti mando la foto. Ma io vado a prendere il telefono se carico, guarda che ce l'ho nell'altra camera. Riprendo tra due minuti. Gianni, a parte Eugenio. E Nicola, cos'è Eugenio? No, Eugenio. Nicola, Nicola, tu sì. Sì, volevo parlare un attimo con un Gianni, ma si allontanerà. Comunque sono in Piazza d'Italia, tanto. Qua c'è una portata che arrivano 10, Nicola. Ha detto che è in Piazza d'Italia. Cappa, com'è il tempo lì? No, ma si sta bene. Non c'è neanche freddo, cambio. Cappa, cappa. Lo coprimi. Cioè, copre la portante, te ne immagini adesso. Ma cosa ti dica? Guarda già che te l'ho mandato, guarda che bello, 030, guarda, nuovo, spettacolare. La sigla, Claudio? La sigla, adesso te lo dico. Non lo trovo. Mi compaiono altri prodotti di altro tipo, sempre della marca, però. MFJ 10-20C Active Antenna. Guarda che bello. C'ha il bypass, c'ha tutta la sezione delle bande. Quindi sono 5, 10, 15, 20, 40 e 80. Tutto c'ha. Ah, ma è un'antenna attiva, non è solo un preamplificatore nudo e crudo. Nudo ha mai detto. Eccolo qua, Am Radio Shop. Cosa devo dire, che è un giocattolo? È un preamplificatore d'antenna, nel vero senso della parola, però è 030, capito? HF. Ma bello e poi funzionante, professionale. È già bello, sì. Claudio. Eia. Scopre anche a te, 9,5 a me mi sta arrivando. La portante non sei Kiwi, è davanti a te. È quello che c'è lì nella... alla fine della danni, a metà della Buddy. A metà della Buddy, io sarei. È lì alla teroce. 9,5 arriva in aereo. 9,10 a casa. Io non ci arrivo 9,5, no? Ho provato a dare un po' più di gas col baracchino, non ci arrivo. No, sei 9, giusto. Non ti posso fare nulla. Cosa vuoi dire? Quando esistono queste persone non so cosa dire. Sei bravo, insomma. Se invece, ma non lo dico, no? Non ce l'abbiamo capito. Aspetta, saluto a Franco. Ciao Franco. Oh Claudio, cosa serve con l'antenna? Quella è la si tira su, per fare la taratura interna, se tu stai per dire trasmettendo, ricevendo con l'antenna interna, quella fa da praticamente, come ti posso dire, da parabola, prende il segnale lì e te lo aumenta con quell'antenna. Mai visto proprio. Bello. Fra, te l'ho mandato a te? Sì, la sto guardando. No, Franco di Sosso, te l'ho mandato questo pezzo che mi hanno portato stamattina, Fra? Sì. Ciao Franco. Ciao Franco, mi ascolti, sì? A voglia, se non mettono la portante, sì. No, qua non ho problemi. La portante è microscopica. E come fa a arrivare 95 a Sorso? Vabbè. Marco, a volte arriva 9.5, a volte arriva 8, a volte arriva 9 e cambia le posizioni. Perché non è esattamente quello lì, capito? Avanti! Arrivi Santiago 4 e la radio è 3. Parcheggia, te l'hai chiesto a Pietro, qua Santiago 4 lo stesso, radio incomprensibile. Non ho capito, chi sei amico di Porto Torres, già va, è la bontà. Io sento propagazione forte. Io mi sono già rotto le balle a parlare così, mi sa che tu lo dubito e via. Bello comunque, bello, mi piace. Al guadagno, banda e una specie di preselettore a destra, molto bello. Beh, quelli sono fatti bene, l'ho visto unito a un Texun 660, come quel giocattolino che avevo io, ricevitorino che sembra una radiolina, molto carino quello. Ho visto il pezzo, bello, bello, si può, a chi interessa si può prendere. Ehi, ehi, Marco, sì, è professionale, è una cosa seria, non è zettagino. Io ho provato in HF, ho attenuato l'HF con quello, roba i segnaloni, mi porta, attenuandolo però l'HF, perché provando proprio l'attenuazione che c'è le differenze. Senza attenuatore, inserendo quel preamplificatore lì, va bene, veramente molto interessante. Vabbè. Ok, adesso alle 8 c'ho appuntamento con un'altra persona che adesso alle 6 mi deve portare due microfoni. Forse in mezzo c'è anche uno Shure. Non lo so, ha detto che devo vedere. Va bene, avanti Franco di Sorso, cambio. Hai il capo. Siete buttarenesi. Compra. Va bene. Probabilmente quello di Porto Torres era un altro che sta in casa, magari stava piazzando l'antenna. Se non è Claudio, è un amico, però non ho avuto modo di saperlo, va. Già ho capito chi è, già lo conosco. Porto Torres, sei Claudio per caso? Porto Torres ci tira buon in culo, c'è importante, che stavi fatto meglio. Mamma mia, come sto? Se ti apro la Bibbia, guarda, neanche il coronavirus ti salva, cazzo. Lascia perdere, Claudio. Ma come si fa, fra? Ma come si fa? Ma il tuo coronavirus dovevi ammazzare agli enti, e invece ne era bugata da sottoterra. C'è sto spagnolo, ma mamma mia, se bestemmio. E vai di lì, vai. Cazzo, lo culo spagnolo, non vedete, va. A poco c'è. Mi arrivano, lui mi arrivano a me. E non vedici, mi sta arrivando a me. Mi vuoi abruzzare a mezzo alle balle. Riprendilo più rum, dai. Da riprendere, ho un casino unito. Ci ricomprendi più nulla. Via. E vabbè. Ora posso sapere chi era con il Porto Torres. Vediamo un po'. Porto Torres, se mi ascolti, non vedici la portata qua, dai. Non vedici. E mette subito la portata come siete che chiamo Porto Torres. Avanti, Franco, riprendi tu. Mi sto cercando, sto rispondendo a un SMS, scusate 5 minuti. Via Marco, vai. Il delirio, sì, non si riesce a parlare con quelli bassi oggi, dai. Ma io andiamo sempre nel canale Alfa che avevamo io. Ma io non ce l'ho il canale Alfa, sono mezzo e mezzo, capito? Niente da fare, dai, casomai vi lascio andare a voi. No, rimani qua, non me la futti nulla del canale Alfa, deve crepare questo, vabbè, cos'è il canale Alfa? Fra, ho aumentato appena, più di questo non posso aumentare, mi senti meglio? Franco di Sorso? Sì, a te io ti sento bene, a meno che non mi arriva più alta di te. Guarda, è il massimo che posso fare con questo, baracchino. Qua giù un linealetto meno letto, fra. Non posso tirare fuori un lineare che mi consuma una barca di corrente per superare le portanti, ma stiamo arrivando proprio alla frutta, veramente, guarda, allucinante. Ehi capo, poco fa eri 9 scarso, adesso sei 9 staccato, dai, con picchi positivi. fra, più di questo non posso fra, non so cosa dirti, non lo so. Se va bene, va bene, se no se la biglia è luce, si è arrodotto e si ammazza. È l'abortante che avrà qualche mano pure baracchino. Avanti Gianni, riprendi. Ahia! Ma che domani ancora niente in uscita? Strano ma ne uscito, anche fa con i patati ne uscito. C'era una tranquillità in ruota a casa prima, tu? Avvero, in questo coronavirus è staccata la mondetta. Sei d'accordo a quello che ti ho detto qualche settimana fa, Gianni? Sei d'accordo allora? Ne conviene che come ti ha detto zio Claudio? Eh? Come che io non lo sapessi, guarda. Me lo aspettavo tranquillamente. Non ce n'è gente che ha voglia di parlare alla radio. C'è gente che ha voglia di rompere le palle. Hanno tolto i baracchini per rompere le palle, per passare il tempo a rompere le palle alla gente. Questo c'è. Gianni, quelli non sono fuori. Non è mondezza, io ci sono carriaggi. Boh, via. Franco, io ti arrivo bene o devo attaccare? Ah, no, lascia stare. Arrivi 9.5 e va bene. Cappa, cappa, dai. Tu, via. A me arriva 9.10. Cazzo, come fate ad arrivare 9.5? Forse c'ha proprio delle antenne. Si prendono le antenne. Ma che cosa? Di chi? Di quello che mette la portante. Oh, è buono. Ma è qualcuno che che può scendere e salire con la portante. Ma la paramattica. Ma ti voglio di questa cava. La direttiva, tre elementi, cioè tre elementi, ma lo manda per i 10 metri. Dalle HF a attaccarla al baracchino e metterla sopra di te e arrivarti 9.30. Cioè, ma a che livelli siamo arrivati? Io non ho bisogno di lineare fra. Io basta che uso la tre elementi, quella dei 10 metri, faccio girare quella e i segnali mi aumentano, mi salgono e mi scendono. Dipende con chi voglio parlare. Ma è assurda una cosa del genere. Non si può veramente. Ehi, cazzo. Vabbè. Quello che stai facendo tu lo può fare solo chi c'ha una direttiva, una cosa così, ma quello che c'ha solo una verticale come ce l'ho io, come ce l'hanno gli altri CD, mica lo può fare, a me ok, non c'ha roba grossa da attaccare. Io ho capito, ma mi senti lo stesso, va bene, ok, però dico, quando ci sono queste cose, non è che uno deve stare con la direttiva, c'è la possibilità, cosa faccio? Franco mi sente più basso, allora devo stare commutando a Sassari con la Mantova e commutando con la direttiva perché è puntata su di te per superare queste cose. Ma è assurdo, cazzo, cioè siamo guattroiati, magari a me non ci vergognano, cazzo. Stavamo meglio quando eravamo poveri. Comunque, i canali Alfa non ce li ha apparentemente, quindi potrebbe avere anche un 40 canali misero me. Un 40 canali misero, 40 anni a distà correndo quello di Dinkuru. Marco, ma tutta la radio ne c'hai, tu non c'hai, una radio che c'ha canali Alfa. Sì, ha voglia, però sai cos'è, adesso devo cucinare, mangiare, dai, mi viene male, dai, fossimo stati in qualsiasi altro momento l'avrei fatto. Comunque andate, io vi posso ascoltare, io col clarifier riesco a beccarvi, andate pure. Sì, per me possiamo anche rimanere qua, intanto, quasi da tutti, il giubbareggio, lo dici di me che c'è solo quel divertimento. No, no, invece fatelo schiattare, andate al canale 11 Alfa, 27095, io vi ascolto, dai, che sto cucinando. Io dai, andiamo lì, voi se ne vanno a fare un culo, se ne va. Proviamo a andarci, dai. Attenzione, Gianni doppio rum, Gianni doppio rum, se ascolti, cambio. Gianni doppio rum, ci sei? Sì, già ti copio, però sono impegnato, dai, Nico. Oh, yeah. Comunque Marco, io riesco ad arrivare a diciamo alla frequenza giusta anche solo col fine corso. Conta che il corso è in trasmissione e ricezione, quindi io posso avanzare di 6 kHz. Poi per ricevervi bene muovo anche il fine, che sarebbe un pomilino piccolo, e vi ascolto bene. Vai, Torino. Vabbè, io ho 10 kHz, vedrò. non c'è problema. Claudio, arrivateci. Claudio. Col WFO girandomi. Aspetta, saluto anche a Kawasaki. Ciao Tony. Tony Kawasaki, vuoi parlare con uno? Mi ti faccio qui al telefono, mi. Hai capito? 2434, ammuto focio. E tu già lo sai, ci facevi il gioco della calzetta. Ai cavolo. Ma cosa c'è oggi? Io ti sento un tipo in strada a Bozzi, l'altro a Bozzi dall'altra parte. Ma cos'è il virus? Attacca anche il cervello. Forse sta piovendo, forse. Aspetta, ritiro la roba allora, tu si bagna. Bianco un attimino. E poi quella pioggia sporca, mi roba di tutta l'arancione. Gianni. Ehi, Antoni, dimmi, ciao. Ciao, ma tu la portata l'hai vista più o meno che se ne è già 9:10 qua. Se da me non mi fa niente. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La divagia se che marvi 9:30. Ma secondo mi piace di più, eh? Ti piace di più il secondo, così. Che cazzo, no, 3-4 si è arrivato a 9-10, 9-15, boh. Quindi vado bene così, dai. Forse anche 9-20, eh. Allora vado bene così, aspetta. Ok, sì. Sì, sì, 9-20, tranquillo. La portata non mi fa niente, capito? Natalino è un po' più forte. Io sono in campagna, oh, ragazzi. Natalino arriva sul più del 30. Grazie, ti siamo un vicino, vai su. Io sono la televisione però, Devi capire che io sono in campagna, sono di tanti a Sassari. Però mi faccio sentire. No, guarda che sento anche a te, quindi sei lì, col segnale, sei molto vicino a Natalino. Però Natalino io ce l'ho a 700-800 metri. Capirai, io sono dopo sto cammino, ho fatto il gozzo. No, guarda agganci, arrivi alla grande qua, Quanti sono? Quanti sono? Pochi, 60. Ti stai così tanto? Allora, buon antenna, buon palo, ho fatto per gli accorgimenti 1-1 in stazionaria. Anche agganciato? Seglia. Adesso guarda, lo stacco, ecco qua, adesso sono liscio, con 5 watt. Adesso il segnale è 4, però con i picchi di modulazione arrivi 7-8. Già va bene. Sicuramente hai modificato l'apparecchio? Ma veramente è un apparecchio di macchina che tutto quanto verniciato, non vuoi tassare, non si comprende più nulla, però visto che va bene, non l'ho modificato. Sì, per dare tutti quei picchi di modulazione sicuramente qualche cosa gli hanno fatta, però va benissimo, Mi serve una persona LC, io qua non posso fare nulla, tizio, cazzo, si rudò, cosa ho arruinato, questo da 3 watt e così deve rimanere. Non tocca nulla, sta lì, vai bene così. Oh, ci sono le radio BCL che mi stanno mettendo la portante. Peggio per te che ricevi troppo. Mi stanno entrando sulle vostre modulazioni. Capito? E sento parlare te e questa voce con lingue straniere. Allucinante. E succede quando c'è molta propagazione. In HF, no? Quelle radio 9, 10 MHz, frequenze varie usano. Ma Claudio è arrivato? Sì, sono qua. Riprenditela. Cosa riprendi, Tony? Me la passione della gana, va a vedere. Guarda, ci sentiamo una volta al giorno, qualche volta che ci sentiamo, Claudio. Ecco. Un attimo. Interessante comunque. C'è un break, dai, avanti break. Ciao Fra, che sto andando via, giusto per vedere l'ultimo passaggio e me ne sto andando. Se tutto a posto me ne sto andando. Fabri, sento un innesco però appena. Adesso magari non lo senti, vero? No, adesso no. Ascolta, ti devo parlare da basso. Leggermente la potente è il Michigan, lo senti ancora? Sì, si sente un. Però se faccio così non si sente, giusto? No. Ma io lo sento, sotto c'è. Fabri, è sempre alle soglie l'innesco. Alle soglie, come se stia per attaccare l'innesco. Mi aspetta, provo a spostare il microfono. Spostando il microfono così, qualcosa senti meglio o peggio? No, meglio Fabri, meglio. È classico, dai. Vieni, come sto sotto il microfono della radio, vabbè. Ascolta, ma il microfono normale c'ha il 60. No, quel 60 che avevo messo a posto, che come l'altro, il 60 c'ha, dai. Volendo puoi anche sollevare un po', ma va bene, così qui lo puoi provare. No, Fabio, non mi biasica. Spostati un attimo al 20. 27205. Scusate un attimo. Ehi, sì, l'innesco è sempre alla soglia, è sempre per lì. Non, sembra che sparisca, ma vabbè, già mi sono spiegato, Tony, mi sono spiegato, sì. Certo, ci hai spiegato. Invece a te, Marcolì, come ti arrivo io? Così? O fammi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aspetti, fallo. Allora, così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, 9 più 10, 9 più 20. Dunque non c'è problema, la portante qua è bassa, è 7. Seppure ci arriva, 7 volte 5, 7 volte 6.